Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. In discussione naturalmente non è il ruolo dell'Egitto per la stabilità della regione, di una regione tormentata e al centro di quasi tutte le tensioni internazionali oggi, né è in discussione il nostro sostegno a un paese fortemente impegnato contro la minaccia terroristica. In discussione è appunto la fine atroce di un nostro connazionale, Giulio Regeni, torturato, barbaramente ucciso. E io voglio confermare a quest'Aula che su questa vicenda l'Italia semplicemente chiede a un paese alleato la verità e la punizione dei colpevoli. La nostra riflessione questa mattina non è tanto sul caso Regeni, che stiamo raccontando come Radio 24 a tempo reale, non è tanto sui rapporti tra Italia e Egitto, e è sull'unica cosa certa che c'è in tutta questa storia, che Giulio Regeni, il ricercatore italiano della provincia di Udine, che è stato trovato in un fosso alla periferia del Cairo a fine di gennaio, è stato torturato. Sul fatto sia stato torturato ci eravamo semplicemente informati su quelle che erano le autopsie sul cadavere di Giulio Regeni. Aumentato il nostro livello di attenzione era raccapriccio quando la madre disse ai giornali: non l'ho nemmeno riconosciuto, l'ho riconosciuto alla punta del naso. Andando avanti poi fino alla giornata di ieri, quando un quotidiano italiano, Repubblica, riporta una lettera che è arrivata al giornale, una lettera anonima scritta in arabo prevalentemente, con qualche frase in inglese e in italiano, dove descrive minuziosamente quello che è stato il trattamento su Giulio Regeni. La descrizione di questa lettera, che naturalmente è al vaglio degli inquirenti e tutto quello che volete dire, comunque corrisponde a quelli che sono alcuni dettagli dell'autopsia che non erano stati divulgati dai media. Sinteticamente, senza rovinarvi ulteriormente la giornata, dimostra come ancora oggi alcune persone che rappresentano probabilmente nel loro paese un'autorità in qualche maniera usano il sistema della tortura. Tortura non significa semplicemente dare due schiaffi o picchiare, è molto dettagliata la descrizione in questa lettera. È un graduale entrare in una sorta di inferno di sofferenze e dolori con una volontà precisa, accanita, scientifica, tecnica di procurare del male, del dolore fisico a questa persona, di mantenere in vita il più possibile questa persona per continuare a procurarle dolore. Si passa da percosse, si passa alle umiliazioni fisiche, si passa all'uso della corrente elettrica, si passa all'uso di strumenti di tortura. Immaginate una sala torture medievale, come a volte appare in alcuni film storici o nelle iconografie più classiche. Quello è probabilmente ciò che è passato un giovane ricercatore italiano, probabilmente inconfondibile dai vostri figli, se aveste visto qualche mese fa. Andando avanti, addirittura entra in gioco un medico che a un certo punto lo visita quando aveva perso coscienza e dice, a quanto dice questa lettera di Repubblica, no, sta fingendo, in realtà non è svenuto, potete continuare a torturarlo. Un medico che per vocazione e mandato della sua professione dovrebbe salvare, aiutare le persone dalla sofferenza, certifica che può continuare la sofferenza. La sofferenza continua con minacce fino a che Giulio Regeni muore. E poi inizia la storia di quello che state ascoltando nei nostri giornali. Io volevo partire dal caso Regeni e cercare di capire meglio da una delle fonti dirette, cioè da un giornalista di Repubblica, quello che descrive questa lettera, senza entrare poi necessariamente nei particolari della tortura, e allargare il campo al fatto che esistono prove certificate, esistono persone che questo studiano, raccontano e classificano, che ancora nel mondo si torturi. Cosa significa torturare? Significa che un essere umano mette un altro essere umano in condizioni di inferiorità e infligge a lui delle sofferenze mirate a o estorcere delle confessioni, o estorcere delle dichiarazioni, o sapere delle cose. si è sempre torturato nella storia dell'umanità. Abbiamo una storia costellata di tribunali, di inquisizioni, di persone che torturano, di accanimento nei confronti della carne umana, arrivando al punto che è difficile definire quanto sia poi veramente finalizzato all'estorcere, all'ottenere un'informazione, o quanto diventi una sorta di gioco e quasi divertimento, quasi passione delle persone che si applicano con tanta maestria al torturare. 800240024, il tema di oggi è la tortura. Avete esperienza, avete avuto racconti, avete una vostra personale opinione nei confronti della tortura? Per qualcuno potrebbe pensare, come già si è detto e si è detto anche da persone rappresentanti grandi democrazie, che in certe circostanze, quando la sicurezza del paese è in pericolo, anche torturare una persona ai fini di salvaguardare la sicurezza del paese è un'azione lecita. Carlo Bonini, buongiorno. Buongiorno a voi. Scusami la lunga premessa, ma volevo far capire che oggi non raccontavamo cose inedite sul caso Regeni, ma riflettevamo sul fatto che ancora nel mondo si tortura. Carlo Bonini è un giornalista di Repubblica, l'abbiamo sentito in passato quando è venuto qui a presentare il suo libro ACAB, da cui poi è stato tratto un film nel 2012 diretto da Stefano Sollima, che è stato un successo. Bonini è un giornalista di Repubblica, Repubblica è il giornale che ha consegnato la cronaca di questa lettera anonima. Puoi in qualche maniera riassumere il significato dal tuo punto di vista di questa lettera? Ma io credo che la lettera, le lettere, perché poi diciamo la corrispondenza con questo anonimo è una corrispondenza finta, è stata una corrispondenza finta in questi giorni, al netto del valore che può essere evidentemente attribuito a un anonimo. Detta, diciamo, metta a fuoco definitivamente una verità che l'Egitto provato disperatamente ad allontanare da sé, ma che oggi resta l'unica ipotesi completamente plausibile. Allora, che questa lettera abbia un fondamento, c'è la corrispondenza, almeno come ho letto sul giornale, tra alcuni particolari che nessuno sapeva se non i medici che hanno fatto l'autopsia sul cadavere di Giulio Regeni, di alcune azioni efferrate compiute su quel povero ragazzo che corrispondono. Esattamente. Quindi era appunto arrivando, cioè che la lettera rimette al centro di questa vicenda il corpo di quel ragazzo. Il corpo di quel ragazzo e le lesioni terribili che quel corpo, le ferite terribili che quel corpo ha subito. Che documentano appunto un'unica dinamica che è quella della tortura. In qualche modo la lettera scioglie, entra nel dettaglio della sequenza di quello che già nelle prime ore, poi dopo il ritrovamento del corpo, ebbe a dire uno dei pubblici ministeri, uno dei procuratori della procura distrettuale di Ginza, il distretto in cui poi Giulio fu sequestrato e poi essere ucciso, torturato e ucciso, cioè è stata una morte, è stata una sofferenza, un'agonia lunga ed è stata una morte lenta. Questo fu detto subito, immediatamente, lo capimmo subito. Subito, immediatamente, esattamente. Ora, questa lettera entra nella, diciamo, nel dettaglio. Scusami Carlo, hai il viva voce per caso? Stai parlando con un viva voce? No, sto parlando con l'auricolare, ma siccome sono in viaggio probabilmente diciamo il disturbo che ho sentito è dovuto. Adesso ti sento meglio, sì. Dicevo, il punto decisivo, la lettera entra in questo dettaglio, che al di là del dettaglio raccapricciante anatomico, dà la misura però della scientificità e della sequenza di un percorso di tortura, di cui purtroppo l'Egitto non è nuovo. Noi scopriamo tutto questo perché tardivamente, colpevolmente, perché arriva la morte di Giulio Regeni, ma le pratiche, la pratica della tortura come strumento, adesso siamo in una trasmissione colta, quindi come instrumentum regni si direbbe, no? Certo. In Egitto è pratica in memore dai tempi del regime di Mubarak. Dico una cosa di più, la tortura non è soltanto la punizione e lo strumento violento esercitato sul malcapitato, è anche, diciamo, un monito a chiunque voglia mettersi nelle stesse condizioni. Carlo, però mi fa pensare quello che ho letto su Repubblica, che è tanto vero quello che stai dicendo, che tutto quello che è accaduto nella sequenza di questi fatti non può essere allenato da un apparato costruito apposta, cioè una struttura per torturare, un medico, una serie di trasporti da una stanza all'altra, delle attrezzature finalizzate alla tortura, il pavimento elettrificato e bagnato che ogni tanto lancia una scossa elettrica al torturato che sta in piedi nudo. Era una vera e propria stanza delle torture organizzata con un personale specializzato. Assolutamente, ma questo, guarda, ai primi di marzo era al Cairo e i racconti che vengono fatti delle pratiche di tortura all'interno delle caserme della polizia, del servizio segreto civile, del servizio segreto militare, non sono un segreto, sono diciamo una confidenza che gli egiziani si scambiano con raccapriccio, con timore, perché anche solo parlarne mette a rischio in quel paese, perché la pervasività, come in tutti i regimi, la pervasività della polizia politica è assoluta, gli informatori sono ovunque, si può essere venduti per convenienza, cosa che probabilmente è accaduta anche al povero Giulio Regeni, è molto probabile, assolutamente verosimile sulla base, diciamo, delle risultanze, delle poche risultanze di fatto che abbiamo, che il povero Giulio sia stato venduto all'attenzione della polizia e dei servizi, che sia stato, come dire, agitato di fronte a un regime paranoico, al drappo rosso di un ricercatore che in fondo non era quello che diceva di essere. E dopodiché, come sempre accade, come spesso accade e come questa lettera anonima in qualche modo documenta, una volta che si entra, cioè si varca quella soglia terrificante della stanza delle torture, non se ne esce più. Ma non se ne esce più non solo perché il torturatore non riesce più a fermarsi, ma perché nel caso di Giulio Regeni, io trovo che questo sia forse la parte più sconvolgente dei suoi ultimi giorni di vita, un occidentale che entra in una sala delle torture di un paese straniero non ne può uscire, per il semplice motivo perché se ne esce sarà pronto a raccontare l'esperienza che ha vissuto. Beh, dalla lettera, da quello che si legge nella lettera, e mi astengo in ogni dichiarazione sull'autenticità, visto che la stanno vagliando, comunque viene fuori esattamente questo: una persona come te, come me, che non ha nulla da dire, perché non ha nulla da dire realmente, semplicemente voglio parlare davanti a qualcuno della mia ambasciata, qualcuno del mio paese, il mio paese non permetterà questo. Era palese, e in tutta la lettera non c'è scritto nemmeno un istante che abbia detto qualcosa di diverso che portatemi qualcuno del mio paese. Questo è assolutamente, ripeto, è assolutamente verosimile, ma è anche, diciamo, è molto nel carattere. Nessuno ha conosciuto Giulio Regeni, ma abbiamo conosciuto i suoi genitori in questi due mesi. Abbiamo conosciuto la compostezza, la dignità, il rigore, l'onestà intellettuale di quell'uomo e di quella donna, e non stento a credere che il loro ragazzo non lo fosse altrettanto. E quindi è assolutamente plausibile e ragionevole il tipo di resistenza che Giulio Regeni oppone al momento, diciamo, del suo sequestro e quando le violenze cominciano, ma è, come dicevo prima, altrettanto spaventosamente plausibile che nella sua intelligenza Giulio a un certo punto capisca che la tortura è andata troppo in là per poter essere liberato. Questo io è una cosa che, diciamo, che è dall'inizio di questa vicenda a cui penso spesso, perché poi in fondo non c'è niente di peggio che a un certo punto essere consapevoli del destino, no? Del destino senza ritorno a cui si è consegnati. È anche molto probabile, perché per quanto siano persone rotte a ogni tipo di emozione negativa, perché di mestiere fanno gli aguzzini, quindi lo sanno, a un certo punto doveva essere palese, vista l'escalation di tortura, di martirio, di sofferenza, di supplizio, che questo ragazzo non sapesse nulla, perché, ma nemmeno un agente addestrato dei servizi di stati continuamente in guerra è capace a resistere a quella roba senza parlare. Se non dice nulla vuol dire che non sa nulla. A quel punto per loro ha solo il gioco di fargli ancora tanto male e poi ammazzarlo. Questo peraltro questa circostanza, cioè il fatto che poi in quel paese ci sia questa sorta di rincorsa all'orrore, per cui i due servizi segreti in qualche modo, pur di accreditarsi di fronte alla presidenza nei loro metodi, si rincorrono nell'orrore, come se, diciamo, questa è una cosa che gli egiziani raccontano, una gara tra chi è più spietato, una gara di spietatezza, no? In questo caso erano i servizi militari, volevano far vedere che loro erano più forti. In questo caso, esattamente, se la sequenza è corretta, Giulio dovrebbe essere morto in una sala di torture dell'intelligence militare, dopo essere passato attraverso gli uffici di polizia di Giza e le sale di intelligence civile, la temutissima National Intelligence, la National Security, la sicurezza nazionale, ribattezzata in questo modo dopo la caduta del regime di Mubarak. Storicamente la National Security si chiamava State Security, la sicurezza di Stato. Ed è un servizio segreto. Paradossalmente le SS le chiamano ancora. La SS, sì. Senti, fermiamo solo un secondo, Carlo. Devo dare la linea alla borsa. Un ascoltatore ci domanda come mai hanno fatto ritrovare il corpo, e riprenderemo fra un istante proprio con questa domanda con te. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Oggi è una trasmissione sulla tortura. Partiamo dal caso Giulio Regeni. Angelo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. La sto ascoltando. Dunque, volevo portare la mia testimonianza in questa occasione, anche se avrei preferito veramente parlare d'altro. Io sono anni che sono a contatto, sono attivista dei diritti umani e sono un medico per la deformazione professionale, ho il compito di coordinare lo sfollettamento delle pratiche sanitarie in Europa di una serie di rifugiati in tutti i paesi d'Europa, in particolar modo in Italia, dove risiedo, in Belgio, in Francia e in Germania. E il suo paese d'origine qual è, Angelo? Io sono iraniano. Sono un esule iraniano, sì. Diciamo che l'avventura è iniziata solo perché ero stato chiamato a visitare una persona in cattive condizioni di salute e che non poteva parlare, e allora ho fatto da intermediario tra il personale sanitario dello stesso ospedale di un ospedale di Roma e questo individuo. Dopodiché la faccenda l'ho presa a cuore e sono venuto a conoscenza, anche se parzialmente sapevo quello che succedeva in Iran. Sono venuto a conoscenza di una serie di verità veramente atroci. Ce ne dica qualcuna di quello che, della sua esperienza, che lei può raccontare per sua esperienza. Sì, guardi, io ho raccolto delle testimonianze. Fino adesso ho visitato più di 436 iraniani esuli fuggiti dalle camere nere, camere oscure delle prigioni del regime iraniano. Ho raccolto tutte queste testimonianze, alcune registrate audio, alcune proprio scritte, e devo dire che veramente c'è un mondo sommerso di cui forse l'Occidente, non sa nulla, bisognerebbe anche ricordare che comunque la tortura nei paesi dove vige un regime dittatoriale è una tecnica di repressione per sedare e per domare il popolo, perché il vero nemico di questi regimi è la popolazione che vive all'interno del perimetro di questi paesi. Quindi, Angelo, scusi, mi conferma un'impressione, ci stanno chiedendo molti ascoltatori, poi chiederò agli altri ospiti, come mai di Regeni è stato fatto ritrovare il corpo. Questo darebbe credito alla sua, al suo punto di vista. È stato fatto ritrovare il corpo perché bisogna che la gente sappia cosa siamo capaci di fare. Guardi, io direi di sì, no, non sono in grado di fare un'analisi diretta, io la mia specialità è tutta un'altra cosa, dico, semplicemente ho vissuto queste scene, sì, e questi regimi spesso volentieri, c'è una condizione molto importante da ricordare, che se uno viene arrestato e varca alcune porte non torna più indietro, perché vede delle cose che sono indicibili. Quello che dice Bonini, quello che dice Bonini poco fa, soprattutto se in occidentale. Confermo, sì. Esattamente. Dall'altro canto bisogna anche considerare che far ritrovare un corpo mutilato con questi sistemi, al di là del fatto che comunque è una cattiva propaganda per il regime, e infatti vediamo che il governo egiziano continua a cambiare le versioni, eccetera. E anche, vuole anche dire, all'inizio loro hanno sopravvalutato il loro potere, non credevano assolutamente che questa uccisione trovasse questo eco all'interno di Europa. Fermo un attimo, Angelo. Carlo Bonini, ricordo, giornalista di Repubblica, autore del libro ACAB. Il nostro ascoltatore, un medico iraniano, conferma alcune impressioni. Entriamo ancora di più sul fatto che ci stanno chiedendo molti ascoltatori, ma se è così stato, perché l'hanno fatto ritrovare? Qual è il tuo punto di vista? Il mio punto di vista è abbastanza semplice e però a me bisogna di una premessa, e cioè che quando noi ragioniamo la vicenda Regeni, ragioniamo di quello che è accaduto in Egitto, noi dobbiamo provare e sforzarci di abbandonare i nostri parametri cartesiani. I nostri parametri cartesiani e soprattutto i parametri di un paese, di cittadini di un paese democratico, per cui, come dire, la logica segue un suo filo, un suo percorso in un contesto che è quello di un paese democratico. E quindi si dice, ovviamente, ma se io ho commesso un reato, se ho fatto qualcosa che non funziona, che senso ha offrire le tracce di quel che ho fatto? Ecco, questo che è un parametro logico, in Egitto non vale per due ordini di motivi. Primo, perché stiamo parlando di un regime il crimine di Stato non è perseguito, non è perseguibile, e quindi, come dire, questo problema non c'è. Non si ponevano il problema di cosa potesse accadere. La seconda considerazione, gli egiziani hanno dimostrato nella gestione di questa vicenda una certa grossolanità, anche questa figlia di una cultura antidemocratica. In un paese antidemocratico la polizia serve su un piatto d'argento una macchinazione, penso alla morte dei cinque predoni presentata come la soluzione del caso e poi ritirata a distanza di neppure 24 ore, e quindi, come dire, a maggior ragione il ritrovamento del cadavere di un cittadino europeo ridotto in quelle condizioni si è ritenuto e si ritiene che non avrebbe menato scandalo all'interno del paese, ma non avrebbe tutto sommato menato scandalo neanche nei rapporti con il paese amico. Perché? Perché la scommessa, che poi risulterà evidentemente perdente, esiziale, è quella che l'Italia, di fronte alla dichiarazione ufficiale di una vittima di incidente stradale e a un'autopsia aggiustata, si sarebbe accontentato di quello che gli era stato detto. Il ritrovamento, quindi, in qualche modo, in quelle circostanze, dobbiamo ricordare, c'era il ministro Guidi con la delegazione dei nostri imprenditori al Cairo, c'erano pressioni, la stampa locale a un certo punto in quei giorni segnala il fermo di un cittadino occidentale inizialmente, poi si scoprirà che era un cittadino americano fermato in piazza Tahrir. Insomma, in qualche modo l'Egitto ritiene, in quel momento evidentemente gli apparati ritengono che il male minore sia far ritrovare questo corpo e non far crescere quindi sull'Egitto la pressione di un paese amico che chiedeva conto della sparizione di un suo. Cioè, in fondo è un ragazzo, in un incidente, una rapina, cioè tutti gli scenari più sordidi sono stati evocati, dice, staranno zitti, quello pensavano. Esattamente. E se poi vogliamo dare, credito a quello che l'anonimo scrive al nostro giornale, l'anonimo anche qui dà una spiegazione. Lui dice che l'ipotesi iniziale più logica era quella di far sparire il corpo, di sfigurarlo, renderlo irriconoscibile per poi abbandonarlo in un buco, questa è l'espressione che l'avrebbero seppellito, deserto, sì. Avrebbero seppellito nell'ipotesi in cui questo corpo fosse mai stato ritrovato. Diciamo, la sua non identificabilità immediata avrebbe consentito alle autorità egiziane di avviarlo, diciamo, a una fossa comune, piano che poi, diciamo, invece conosce una sua variante, perché appunto la presenza della Guidi, delle notizie di stampa, la potenziale ansia per una pressione da parte dell'Italia e della comunità internazionale. E quindi si ritiene che il male minore, tutto sommato, sia farlo ritrovare per poi aggiustarsi con una versione verosimile. Non dimentichiamoci mai, sono passati 2 mesi, ma vale la pena ricordarcelo, che il giorno in cui arriva la delegazione, il team investigativo italiano al Cairo, e sono, diciamo, è già stata a quel punto scartata l'ipotesi grottesca dell'incidente stradale, la sera dell'arrivo del nostro team investigativo al Cairo, le autorità egiziane fanno 2 fermi. E annunciano di essere a un passo dalla soluzione del caso. Questo, diciamo, è un elemento che poi in queste settimane è stato, diciamo, anche questo rimosso tra le tante sciocchezze dette da quel regime. Ma questo è per dire che quando noi ci facciamo una domanda in questa vicenda e apparentemente ci troviamo di fronte a qualcosa di illogico, dobbiamo sempre fare i conti con, diciamo, il nostro sguardo, il nostro punto di vista, che è il punto di vista di cittadini di un paese democratico. Allora, Carlo Bonini, ci fermiamo un istante, devo ridare la linea. Abbiamo in attesa Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International in Italia, che poi ci allargherà nella ultima parte della trasmissione lo scenario, partendo appunto dal caso Regeni, agli altri regimi in cui palesemente e in maniera certificata si tortura. Molti scrivono, la domanda era per Bonini, che ha scritto molto di polizia, ma anche in Italia c'è stato episodi simili, Bolzaneto e via dicendo. Sono vicende che in questo momento non sono, secondo me, paragonabili a questo tipo di vicenda. Comunque sia, vicende assolutamente deprecabili. A tra un istante. Melog, cronache meridiane. Riccardo Nuri, buongiorno. Buongiorno. L'ho fatto ascoltare nella quintessenza del caso Regeni, per quello che noi sappiamo. Abbiamo allargato, ci ha telefonato il medico iraniano dicendo che è testimone anche lui di episodi di tortura dal suo paese d'origine. Vediamo di capire, lei che è portavoce di Amnesty International in Italia, quanto, perlomeno dalle vostre fonti, è diffuso un fenomeno di tortura applicata nella efferatezza e nella crudeltà come noi abbiamo avuto testimonianza del caso Regeni. Allora, la tortura ha questo di particolare: è universalmente vietata e quasi universalmente praticata. I paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'ONU contro la tortura, che risale al 1984, sono oltre 150, e secondo l'ultimo rapporto di Amnesty International, che fa riferimento al 2015, i paesi in cui ci sono stati casi isolati o non isolati di tortura sono stati 113. Ma fanno parte di questi 150 anche? Che hanno ratificato, sì, certo. Quindi hanno firmato non torturiamo, ma continuano a farlo. È così, è così. Può dare qualche nome di paese, così capiamo anche. Sì, ci spostiamo un po', perché abbandoniamo il Medio Oriente, dove la tortura è diffusa, diffusissima, con esiti spesso mortali, come vediamo, ma un paese apparentemente insospettabile come il Messico ha fatto registrare, e queste sono denunce fatte alla Commissione Nazionale dei Diritti Umani, dal 2000 al 2013 oltre 7.000 denunce di tortura. Ed è un dato spaventoso, vuol dire non so quante all'anno, insomma, adesso non riesco a fare il calcolo a mente, ma 7.000 denunce di tortura nel giro di 13 anni. Quando noi parliamo di tortura parliamo di qualcosa assimilabile a quello che abbiamo solo accennato del caso Regeni, qualcosa che poi alla fine si entra in una stanza buia e non si esce più. Sì, questa è la tortura classica, quella che è fatta ancora di supplizi medievali, con strumenti più o meno rudimentali, ma sempre con grande metodo, con grande professionalità, purtroppo con grande efficienza. Poi con un medico vicino che si occupa di tenere in vita il torturato, che è importante. Certo, infatti quello che possiamo dire è che quando la tortura uccide, perché il suo obiettivo è uccidere la personalità, non tanto la persona, perché poi il torturato deve uscire fuori malconcio, distrutto, per far vedere qual è l'effetto della tortura, no? Poi però invece ci sono i casi in cui si va fino in fondo, perché la tortura lì serve per punire proprio una persona per quello che si ritiene abbia fatto. Ma sì, certo, c'è il medico, ci sono esperti, ci sono addirittura degli psicologi che cercano di capire anche in base all'origine delle persone quali possono essere i loro punti deboli. E poi la tortura moderna oggi, quella che abbiamo visto in azione per esempio a Guantanamo, neanche ha più bisogno del contatto fisico tra la vittima e il torturatore, e va detto che la vittima è sempre sola e ha intorno a sé spesso un gruppo di 10 o più torturatori, quindi anche dal punto di vista psicologico questo stato di inermità, di sofferenza, di abbandono, di isolamento è totale. Già trovarsi nudi, indifesi, immobilizzati in una stanza con 10 persone che ti minacciano di farti le cose non è una cosa allegra. No, infatti secondo il diritto internazionale la minaccia, la semplice minaccia di tortura è equiparabile alla tortura, proprio quella situazione che lei ha descritto benissimo. Un attimo solo, Gerardo, un ascoltatore ci chiama. Gerardo, buongiorno. Buongiorno. Cosa doveva dirci? Niente, che come ho scritto nel messaggio, la tortura è sempre stata praticata e sarà sempre praticata, sia nei paesi medio orientali, ma anche la tortura viene praticata anche in Italia, viene praticata anche in Europa, negli Stati Uniti. Lei che esperienza ha di questo? Io essendo adesso sono in ferie, sono in Italia, ma tra poco ritorno nel mio reparto in legione in Guyana. Lei è un legionario della legione straniera? Sì. Noi fino a una decina d'anni fa avevamo l'obbligo di passare per le armi i contrabbandieri di organi umani. Adesso dagli ultimi 9 anni abbiamo deciso che prima li torturiamo, dobbiamo sapere chi sono, soprattutto chi li paga, e poi dopo, senza ucciderli, poi li ridiamo alle polizie di appartenenza, che possono essere dell'Uruguay, del Brasile, dell'Argentina. Lei è stato addestrato per torturare queste persone? Io no, però ci sono dei reparti specifici per tortura, come stanno in Italia ai Colmoskin, e ci sono loro. Con Subin e Ranger Alpini non lo fanno, ma ai Colmoskin lo fanno. E che tipo di tortura applicano? Torture classiche, comunque a base di strappo delle unghie, di amputazione delle dita, di scosse elettriche e così via. Parliamoci chiaro, la bomba che misero nella caserma, ricordo in Iraq, l'hanno messa in Afghanistan, se non ricordo, dove uccisero parecchi militari italiani, l'hanno messa per quella, non per altro. Questa. Lei come fa a sapere queste cose? C'è stato, c'era, le hanno raccontate? Allora, io mi sono arruolato nell'89, di conseguenza dalla prima guerra del Golfo in poi le ho fatte tutte, e viene a contatto con tantissimi altri. Ma arruolato dove? Dove? Nell'esercito italiano? No, in legione. In legione, quindi lei però sapeva quello che facevano i legionari, non quello che facevano gli italiani? No, sappiamo tutto. Sappiamo tutto per il semplice motivo che noi abbiamo contatti in continuazione con tutti quanti gli altri eserciti, in cui facciamo addestramenti interforze, ma perché comunque, ti dico soltanto una cosa, che ci sono alcuni reparti dell'esercito statunitense, italiano, francese o russo e così via, che vengono addestrati da noi in Guyana per la resistenza e combattimento in giungla. Di conseguenza, quando stai lì, scambi informazioni, vieni a sapere tutto quello che fanno gli altri eserciti. Lei non ha mai torturato nessuno, Gerardo? No. Allora, no, perché non è una cosa, io la reputo una cosa vigliacca, perché comunque anche se devi estorcere delle informazioni lo fai con una persona che è totalmente indifesa, preferisco più il contatto alla pari. Fermo un attimo, no? Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty, questo è un ascoltatore che ha telefonato adesso, una sua breve riflessione su quello che ha detto, poi visto se il tema merita approfondimento ci torniamo. Beh, insomma, che c'è materia per approfondire indubbiamente, non passa giorno in cui non ma c'è qualcosa che corrisponde, diciamo, a vostre testimonianze, documenti che avete rispetto a quello che ha detto il nostro ascoltatore? Ma su alcune cose, ad esempio sul fatto della tortura in contesto bellico, evidentemente sì, insomma, non fa parte in alcuni casi proprio della strategia di terrore, non è nulla di nuovo. Ricordo anche, d'altro adesso è uscito anche un film che si chiama La linea sottile, proprio sulle torture praticate nell'ambito della missione internazionale in Somalia, anche da parte italiana, quindi non mi giunge nuovo. Va bene, la sigla ci dice che abbiamo finito, però direi che questo è una è un argomento che non può esaurirsi soltanto in questa trasmissione, soprattutto con la telefonata al nostro ascoltatore Gerardo. Probabilmente ci torneremo in maniera dettagliata, approfondita, perché è facile puntare sempre il dito contro il paese straniero quando forse sarebbe anche il caso di guardare quello che succede a casa nostra. Alla prossima!